Cari amici di Radio Pig World, mi chiamo Pietro Pancamo e sono uno scrittore che ha da poco pubblicato su Diogen, una rivista culturale di Sarajevo, fra le più importanti d'Europa. Da oggi vi presenterò un nuovo podcast letterario intitolato The Pig World of Poetry and Fiction. Ogni puntata vi proporrà un autore differente. Il primo è lo scrittore e regista calabrese Gregory Fusaro, da svariati anni residente a Milano e attualmente impegnato a costruire, attraverso il collettivo Underground Distribuzioni Alternative, da lui fondato, una rete indipendente di artisti. A te la parola, Gregory. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Io sono Gregory Fusaro e sono il direttore artistico del progetto Underground Distribuzioni Alternative. Il mio percorso inizia una decina di anni fa, con una raccolta di poesie dal titolo In questa nostra stanza, pubblicata da Vitale Edizioni. Successivamente partecipo alla realizzazione del catalogo Il cinema italiano 1959, prodotto dall'Archivio cinematografico della Resistenza di Torino. Tra il 2007 e il 2010 realizzo quattro cortometraggi, tutti adattamenti di miei racconti. Si tratta di Attraversando il ponte, La mostra, Abitudini e Musica e sogno. Passo poi alla produzione e alla realizzazione del mio primo documentario, girato insieme a Massimiliano Vergani. Il titolo è In via Savona al 57. Si tratta della storia del cinema Messico di Milano, appunto. E una delle ultime monosala tuttora aperte. Poi nel 2014 realizzo un videoclip musicale, il mio primo e unico videoclip su un brano di Luca Pomì. Nel 2015, con la produzione dell'Ampi di Rho, realizzo un documentario dal titolo Saprei morire e rispettare la vita, realizzato sempre insieme a Vergani. E qui andiamo a raccontare la storia della resistenza nell'area rodense. A fine 2015 lancio insieme all'Associazione Culturale Eliantus il progetto Underground Distribuzioni Alternative, un progetto che mira a favorire la diffusione delle opere di artisti fuori dai circuiti convenzionali. Dopo una serie di eventi in un piccolo ARCI di Milano, l'ARCI L'Impegno, siamo passati a un nuovo progetto che vuole essere la nostra prima produzione. Si chiama Rabbia Maneggiare con Cura e vogliamo realizzare un disco e un libro attraverso un crowdfunding su una piattaforma MusicRiser. La campagna è iniziata meno di un mese fa e siamo già a metà dell'opera, abbiamo già raccolto il 50%. Quindi abbiamo ancora un mese, quasi un mese e mezzo per portare a termine il crowdfunding, che comprende tanti artisti molto diversi fra loro, che scriveranno dei testi che finiranno nel libro e una parte di questi testi verranno musicati da una serie di musicisti che fanno parte del nostro collettivo. Per partecipare al nostro progetto è sufficiente andare sul sito www.musicriser.com e cercare il collettivo Underground. Il nome del progetto è Rabbia Maneggiare con Cura. In base all'offerta che si fa, si riceve in cambio una ricompensa che va dalla maglietta al libro in versione digitale, al CD in versione digitale o chiaramente anche i supporti in versione cartaceo il libro, in versione CD la parte musicale. Qualsiasi contributo è fondamentale. E si tratta di coprodurre insieme a noi questo lavoro. Lo scopo del progetto Underground non è quello semplicemente di produrre supporti fisici come libri, dischi o DVD. Vogliamo andare un po' più a fondo, vogliamo provare a creare un movimento indipendente in un momento in cui lo stesso circuito indipendente vive una grossa crisi di identità e una grossa crisi strutturale. Siamo dell'idea che non serva più a nulla piangersi addosso su ciò che è stato. Al momento chiudono i cinema, chiudono i teatri, chiudono le librerie. I locali dove si fa musica dal vivo diminuiscono sempre di più. Sta cambiando il mercato e gli spazi culturali diminuiscono. Quindi noi vogliamo provare a ragionare sulle alternative. Bisogna assumersi delle responsabilità, non tanto da artisti, perché non sta a noi definirci tali, più che altro come cittadini. Quindi questo è un movimento nato innanzitutto da delle normali persone che hanno bisogno di avere delle alternative, di poter scegliere cosa è bello e cosa no. E oggi il mondo underground, definito così, non c'è e non dà sostegno a tutte le esigenze. Questa è una generalizzazione, ovviamente, ci sono dei focolai di cose buone, però arrivano un numero troppo ristretto di persone. E sarebbe bello riuscire a creare un qualcosa che possa in qualche modo coordinare tutti questi focolai, tutti questi bei cortili che però sono visibili solo ai proprietari. Questa è la metafora che a Milano si usa spesso. E adesso vi leggerò alcune mie poesie, alcuni miei testi. Questo è un brano contenuto nella mia prima raccolta di poesie del 2005. Si chiama Essere, la visione. Sei l'amore, sei il sogno, sei il vento, sei il sole, sei la luna, sei il giorno. Sei la paura, sei la notte, sei l'odio. Sei l'orgoglio, sei l'ossessione, sei la parola, sei la favola. Sei il pensiero, sei la vita. Sei l'astuzia, sei la pigrizia, sei la morte. Sei la gioia, sei la poesia, l'illusione, sei la realtà, sei la visione. Strano, ma a volte non sei nulla. In questa nostra stanza, apri quella porta, c'è sempre una stanza nuova, senza le parole che rendono chiaro il pensiero e quel viaggio che continua. Crederci quando sembra solo un debole vento, che mai pare permettere il volo. Finito il tempo delle paure, ora è una dolce sera. Mille pensieri, mille ricordi già in noi. strano per te, strano per me, vicini, abbracciati in una calda coperta di emozioni comuni, sorrisi, lacrime, tutto insieme, in questa nostra stanza. Questo brano si chiama Ricordi sfocati. Volevo ridare vita ai ricordi sfocati, volevo pensarti. La ragione rende irrazionali, sembrava logico rimuovere quei giorni. Non torneranno, resterà un sorriso in bianco e nero. Due soli. Gioco di riflesso, chissà, strana reazione alla realtà. Guardo il lato che mi inganna, piacevole desiderio di falsità. Due soli su di me, due soli io e te. Energia o solitudine non ti dirò, il dubbio ci renderà più simili. Vedo male. Passo il tempo a guardare cose che vedo male, a osservarti, a cercare di capirti, ad aspettarti. Passo il mio tempo a sperare nel cambiamento, nella rivoluzione, ad aspettare il mio cambiamento. Ti osservo e spero di non diventare mai come te, ma il terrore mi assale. E se fosse la mia immagine, il mio mostro, passo il tempo a guardarmi e forse vedo male. Questo è Musica e Sogno, oltre ad essere un racconto, è anche un cortometraggio. Ho adattato questo racconto alla forma cinematografica qualche tempo fa. Il sole è tramontato da qualche ora ormai. Giornate come queste lasciano una stanchezza tale che nessun esagerato riposo pare capace di cancellare. Meglio fare una passeggiata. Non fa tanto freddo, in questa stagione pure il paesaggio trasmette stanchezza, ma ha comunque un suo fascino. Cammino con i miei pensieri confusi ma che riescono a fondersi con ciò che vedo lungo il percorso. Una piccola salita, le case sono vuote, almeno questa è l'impressione. Solo qualche gatto padrone del territorio osserva con sospetto il mio passaggio. Il buio non nasconde la desolazione di alcuni angoli del quartiere, anzi ne accentua lo squallore. Vedo cadere una tegola da una vecchia casa, ma non ne sento il rumore. Non sento il rumore che l'urto dovrebbe provocare. Sento solo una soffusa melodia che pare provenire da lontano. Un lungo assolo di violino, non ne conosco l'autore, in verità non credo nemmeno di averlo mai ascoltato. Ma così quel quartiere è diverso, più bello del solito. Non mi spaventa più il suo buio. Salgo ancora, mi avvicino al centro del paese. Vedo i ragazzi che corrono, alcuni sembrano agitati, altri sorridono. Parlano, passeggiano. Nel mio silenzio. Quello che nei film è un suono proveniente dal golfo mistico invisibile, nella mia mente è il silenzio che nella realtà non c'è. È il suono che solo io posso sentire. Il violino che diventa chitarra, tromba, pianoforte, chissà quanti altri strumenti. Poco importa se questa finta melodia non cambia il contenuto della realtà. Anche solo per una sera tutto sembra più leggero, più sincero, più bello. Un'orchestra al posto della verità, la musica al posto della solitudine. Le note accompagnano il cammino, verso un posto schiavo delle proprie abitudini, che si prende gioco di ogni essere che ne fa parte. Gli danno colore, armonia, gli danno la bellezza che non potrà mai avere. Torno a casa, accendo lo stereo. La musica è reale stavolta, e guardo un panorama che non è più quello che vedevo con gli occhi di un bambino, che trovava tutto più grande di sé.